Dialog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ancora scempio, ancora orrore, ma questa volta la barbarie dello Stato Islamico si abbatte contro la storia e la cultura. Non più in mano coltelli e fucili, ma mazze e martelli pneumatici con cui distruggere reperti millenari di un museo di Mosul. Pochi minuti per azzerare la memoria della civiltà umana, statue, bassorilievi, busti dell'antico impero assiro, reperti archeologici di Ninive, l'antica capitale, custoditi gelosamente, mandati in frantumi sotto i colpi di piccone. Tutto ripreso e postato sul web nel tentativo di indignare e terrorizzare l'Occidente. Le immagini dell'accanimento dei miliziani contro le statue assirie hanno fatto il giro del mondo e portato rabbia e sconcerto. Un crimine contro l'umanità e il grido d'allarme lanciato dagli archeologi, con l'UNESCO che chiede una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Dalla Siria le notizie sono sempre più drammatiche. Ancora rapimenti, questa volta 350, tutti cristiani. Bingo. Sono riusciti ancora una volta a far parlare di loro. Oggi tutte le pagine dei giornali sono piene, i telegiornali sono pieni, ma giustamente pieni, delle immagini dei guerrieri del califfato che compiono un gesto che provoca ancor più quasi indignazione di quello che ormai è un rituale a cui siamo abituati, che sono le pubbliche decapitazioni. Vi sembrerò cinico. Non voglio fare commento a questo evento sull'onda dell'emotività, ma voglio freddamente analizzare un messaggio pubblicitario che passa attraverso la rete, che è la versione contemporanea della diffusione televisiva, e voglio capire da cosa sia mossa questa strategia ben precisa. Quindi scusatemi se parlerò in maniera non appassionata, anche se ieri ho avuto una profonda commozione nel vedere opere d'arte raffinate, bellissime, enigmatiche, piene di storia, piene di mistero e caricate di 3.000 anni di storia, decapitate a colpi di mazza da un quattone con la barba lunga che si accaniva come si accanisse contro, non so, una casa da demolire, delle pietre da spaccare. Vedere il frullino da muratore sfregiare una sfinge che guardava quasi sorridendo, quasi impassibile, come se pensasse: ho talmente tanto dentro di me e tanto conta chi mi ha fatto, che tu puoi anche distruggermi con il tuo martello pneumatico, ma facendo questo sei fuori dalla storia, sei già un uomo morto, e probabilmente quella persona non chiede di meglio che essere morto, così finalmente avrà il tripudio delle 70 vergini. Non mi scandalizza nemmeno in sé il gesto iconoclasta, violento, vigliacco, schifoso. Oggi leggete i giornali, è stata distrutta qualcosa che non ha precedenti, nessun altro mai potrà mettere un riparo a un pezzo dell'umanità che scompare. Opere d'arte che fra l'altro erano rappresentative dei loro antecedenti, la loro storia, non erano opere d'arte di una civiltà antagonista. Noi tutti abbiamo distrutto idoli nemici, quelli sono idoli loro, per quanto possa una visione religiosa non apprezzare la rappresentazione iconografica di dei di idoli, il rispetto per la storia ci voleva. Chi non ha capacità di elaborazione della propria storia, del proprio passato, è già fuori dalla storia, è già morto. Tutti quelli che hanno distrutto opere d'arte, opere di letteratura, opere di poesia, alla fine hanno fatto una fine pessima, perché quando uno compie questo gesto già è fuori. Guardate, non mi scandalizzo nemmeno, è inutile dire sono bestie, animali, sì, vero, tutto questo, ma noi civilizzatissimi occidentali, pensate cos'è stata l'iconoclastia della riforma protestante. A metà del Cinquecento, proprio perché Calvino e altri avevano detto che in nome del Pentateuco e delle scritture religiose non dovesse esserci rappresentazione della divinità, sono state distrutte chiese, cattedrali, opere d'arte inestimabili, fatto nel civilissimo Occidente, fatto da la religione religione protestante, che in fondo è la base della grande civiltà degli Stati Uniti d'America. Quindi ci siamo passati tutti. Ma la domanda che pongo questa mattina all'amico Bruno Ballardini, del cui tempo stiamo ampiamente approfittando, ma sono felice perché servirà comunque ad anticipare il suo libro, che finalmente leggeremo, è: nella strategia dell'ISIS, intanto buongiorno Bruno Ballardini. Buongiorno a tutti. E nella reazione a volte anche goffa, anche ridicola, quando un direttore di un canale di TV satellitare Rai, che guardano tre persone, dice: noi oggi non faremo più vedere le cose dell'ISIS, ecco, hanno già girato l'ostacolo, è inutile, non tagliamo più teste, tanto per noi teste di Stato o teste di cristiano è la stessa cosa, vi facciamo vedere qualcosa che non potete fare a meno di coprire. Questa è la mia lettura. Ma io trovo ridicola assolutamente la reazione di Rai News, diciamo, chiamiamo le persone e le cose col loro nome, perché è una censura buonista assolutamente inutile, visto che il canale preferenziale dell'ISIS è internet e continuano comunque la loro propaganda. Questa però non è propaganda, non è affatto propaganda, è la realizzazione del piano militare. Dobbiamo ricordarci che la guerra non è solo mediatica, è guerra, e quindi questi signori stanno portando avanti la loro strategia militare, che è quella di annullare completamente il nemico. Ecco, perché considerano nemico comunque un'opera d'arte? Io sono molto banale in questo, soltanto un frammento di quelle opere avrei potuto fruttare, che ne so, una decina di tir di Kalashnikov, per dire, avranno anche un valore reale, concreto. Perché essere così stupidi da crearsi un dissenso così allargato su qualcosa che in realtà poi, da un punto di vista pratico e concreto, decapitare una statua a cosa gliene viene? Allora, diciamo che in realtà a telecamere spente c'è un commercio dei beni archeologici che alimenta le casse dell'ISIS, cioè... Quindi no, i pezzi se li vendono poi? I pezzetti se li vendono a pezzetti, quelli più o meno vendibili, e lo fanno. Il discorso è un altro, è che stanno operando un piano di quella che chiamava Chomsky ingegneria storica, cioè cancellare il passato degli altri. E questo veniva fatto anche dai nazisti, cioè qualcuno ha definito l'ISIS il nazismo dell'Islam. Effettivamente il paragone è calzante. Ma questo l'hanno fatto tutti, le grandi dittature, anche nella Cina maoista c'era stata necessità molte volte, ma persino nella Russia, con l'avvicendarsi poi dopo abbiamo visto i grandi capoccioni del duce buttati a terra, Sironi censurato, abbiamo visto cadere le statue di Stalin, poi cadere le statue di Ceausescu, cadere le statue di Saddam Hussein. Ma non era qualcosa così ancorato comunque a un passato remoto così prezioso? Ma io vorrei ribadire un concetto che gli antropologi hanno molto ben chiaro, è il fatto che noi ci stiamo scontrando, mi dispiace ma ci stiamo scontrando, cioè la gente fa finta che non ci sia la guerra, con una cultura, una civiltà diversa, un modo di intendere la storia diverso. Queste sono civilizzazioni che non hanno storia, nel senso che sono fuori della ciclicità, noi viviamo nella ciclicità, abbiamo un passato e un futuro, loro sono fuori da questa concezione, quindi per loro non esiste il passato, esiste un unico continuum senza interruzioni, e quindi non gliene importa assolutamente niente quello di cancellare il passato degli altri, perché per loro semplicemente non esiste. Sentiamo qualche ascoltatore. 800240024, cosa ne pensate della spavalda dimostrazione di distruzione di reperti storici millenari, inestimabile valore? Stiamo dando una lettura assieme a Bruno Ballardini per cercare di capire dietro questo messaggio cosa ci sia. Non pensiamo che sia così semplice dire: ah, non hanno il senso dell'arte, non hanno... È molto diverso quello che dice Ballardini. Stiamo parlando di uno scontro di civilizzazione così acuto che va oltre persino il riconoscimento dell'uno o dell'altra manifestazione religiosa, proprio un concetto radicale, profondo, del concepire il divenire nella storia. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei ha fatto ottimi riferimenti, sia lei che il suo ospite, su quello che anche noi abbiamo fatto, cioè abbiamo un percorso storico e culturale che ci ha consentito di distruggere oltre le statue. Però volevo dire che la distruzione delle statue del museo di Mosul, dietro quei martelli ci siamo noi, cioè quei quattro che stanno lì a sfasciare, fanno bene perché sono la sembra la trasmissione Cruciani, sta venendo l'ambulanza a portarla via. A portarmi via, sì, infatti, sì. Non sono io, è una casualità. Lo so, l'ho vista passare. Sarò breve. No, il discorso è che noi ce lo meritiamo. Nel senso che quelle statue sono distrutte, vengono distrutte, come è successo tante volte nei nostri, diciamo, secoli più o meno bui, semplicemente perché noi lì non ci siamo. Cioè noi lì siamo andati con una falsa idea di esportazione di un sistema di voto che non è un modo di vita. Abbiamo fatto come occidentali, sì. E dopodiché ci siamo andati. Alla fine è sorto questo diciamo monarchismo di matrice non esoterica ma islamica, e poi stanno facendo quello che hanno sempre fatto tutti quanti: distruggere la cultura di popolazioni per affermare sempre più la propria. Sì, in effetti questo patrimonio di cui parliamo è rimasto fino al 1000. Ma noi non ce ne frega niente. No, aspetta, mi faccia finire, Giancarlo, calma. Tranquillo. Sono emozionato. Dicevo, fino al 1800, quando l'archeologo britannico lo scoprì, era sotto la sabbia e giustamente nessuno gli fregava niente. L'idea... Era meglio che fosse rimasto sotto la sabbia. Sì, ma probabilmente sì, è un'idea vera, proprio occidentale, del recupero delle vestigia storiche. Con le vestigia romane ci hanno costruito le chiese barocche. Ma noi abbiamo calcinato fior di stato. Figuriamoci, è vecchio il mondo. Ma la differenza è che, proprio perché il mondo però è cambiato, una sensibilità diversa, è l'esposizione mediatica di questa operazione ha un senso. Su questo ci interroghiamo. Certo. Gianluca, grazie, fermo Giancarlo. Gianluca, basta, via. Gianluca. Salve, io sinceramente adesso ascoltavo l'ultimo intervento, significa essere un po' miopi. Il dottor Ballardini sottolineava una cosa, è l'approccio con il tempo e la storia che è diverso. Questo scontro di civiltà dice appunto che vuole esserci un azzeramento di qualunque altra cosa che non sia il loro tempo presente, e questo a cause sicuramente economiche, perché probabilmente dopo l'influenza dell'ultima guerra in Iraq, Medio Oriente, che ha radici a partire dal 94, ormai sono 20 anni che andiamo lì a combattere, purtroppo non abbiamo sostituito in una pseudo esportazione della nostra cultura democratica, non abbiamo costituito una emancipazione economica, cioè gente che prima lavorava come soldati e adesso non lo fanno più e recepiscono risorse. Grazie, fermiamo Gianluca, devo dare Bruno Ballardini, solo un secondo, come vedi io non riesco a uscire da questa sorta di strategia da bar dello sport, è così, abbiamo fatto una domanda ben precisa e tutti improvvisamente sono degli scenari chiarissimi ad ogni ascoltatore di perché accade questo. Qualcuno mi scrive anche gli americani hanno bombardato l'Italia, ma era un'altra cosa, altrettanto grave. Io voglio capire esattamente, mi risponderai dopo il traffico che do e durerà 30 secondi, perché la dimostrazione mediatica attraverso un mezzo molto forte, conoscono la rete, conoscono la capacità di penetrazione, di coinvolgimento, sanno questo messaggio arriva a noi, perché ci fanno vedere che prendono ammazzate le loro stesse statue, le statue che rappresentano il loro passato. A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. .00240024, cerchiamo di riflettere in maniera meno superficiale sulla distruzione del museo di Mosul da parte dei guerrieri del califfato. Io so che non è un accanimento, ma mentre parlo sempre dei televisori accesi, a quest'ora va un programma sulla 7 e vedo Vladimir Luxuria e Sgarbi che stanno parlando della zona a luci rosse di Roma. Come vedete, ancora messaggi così chiari, così espliciti dovrebbero farci riflettere, ci permettono comunque di divagare. Bruno Ballardini, vediamo se riesci un po' a rispondere alla domanda che avevo fatto prima. Ci riesci? Cioè, come rispondi? Velocemente, in sostanza loro stanno affermando il loro messaggio centrale, che è quello della proposizione di un'unica interpretazione dell'Islam, che è l'unica accettabile, tant'è che noi vediamo le statue adesso, ma loro hanno fatto saltare per aria moschee d'arte meravigliose. Centinaia di migliaia di volumi distrutti. Certo, roghi di libri, di incunaboli, di vecchi volumi preziosi, cioè il problema è la cultura precedente e quindi appropriarsi del futuro. Appropriarsi del futuro significa affermare un'unica cultura che è quella del salafismo più estremo. Noi dobbiamo pensare che poi non siamo neanche tanto innocenti, perché in realtà stiamo facendo le stesse cose con Pompei, quindi non è che siamo proprio... Certo, ma infatti io sono partito così, Bruno, non mi straccio le vesti, dico che orrore, dico ci siamo dentro tutti, però capiamo perché ci mandano un messaggio così chiaro. E vorrei anche capire l'escalation nel centellinare certi messaggi. La distruzione è avvenuta non adesso, tempo fa. Appare adesso, dopo, cioè, io ti dico, il palinsesto così composto, decapitazioni singole, decapitazioni multiple, incendi e roghi singoli, roghi multipli, minaccia di grande strage, poi appare improvvisamente la distruzione delle opere d'arte. Ma ecco, mi hai letto nel pensiero, perché nel mio libro, che uscirà diciamo fra una mesata, ma datti una mossa, perché no, ci sono dei tempi tecnici, ma il discorso è che poi in realtà parla di cose che rimangono, non parla di attualità, fa un discorso più generale. Parlo esattamente di palinsesto, cioè c'è una ottica di pianificazione, di programmazione che è molto interessante, è una vera novità ed è un po' di tipo occidentale, quella che fanno nelle agenzie di pubblicità quando si stabilisce un'azione di bombardamento pianificata nel tempo. Oh, questo è esattamente il grado di competenza che mi serve questa mattina, perché mi stanno elencando via SMS tutto quello che è accaduto, da Pol Pot, il Lanzichenecchi, tutto. E siamo d'accordo, è sempre successo nella storia che una civiltà, quando si voleva sovrapporre un'altra, distruggesse tutto ciò che per l'altra era importante, cominciando da stuprargli le donne fino a distruggere le chiese, i luoghi di culto, l'arte, o saccheggiandole e portandola via. Noi abbiamo saccheggiato l'arte in Egitto, in Cina, dovunque siamo andati abbiamo sempre fatto man bassa. Non è questo il problema. Il problema è nell'escalation di un palinsesto ben costruito attraverso la rete, cosa vogliono dire in questo momento. Guglielmo, buongiorno. Buongiorno, Guglielmo da Modena. Infatti volevo intervenire proprio a questo proposito, riprendendo la battuta di prima, che i totalitarismi, le dittature hanno distrutto, cercato di fare tabula rasa delle culture preesistenti. Allora, se andiamo a poco 50-70 anni addietro, nel 45, la guerra quasi finita, 44 anzi, Montecassino è stato raso al suolo dalla più grande democrazia. Assolutamente, sì. Le truppe marocchine e francesi hanno fatto carne di porco delle donne di un'intera regione. Ma non dobbiamo fare. Oltre Montecassino, andiamo a vedere i danni che hanno subito Bologna, Napoli. Perché se continuiamo a fare l'elenco delle distruzioni. Ma perché siete così ideologici e dovete per forza sempre e rifare la storia delle storie? Stiamo parlando di un messaggio ben preciso. Stiamo parlando dell'Occidente che è sotto attacco, non tanto in questo momento da armi convenzionali, ma una campagna di propaganda che passa per la rete. Io voglio, attraverso esperti di comunicazione, decifrare, interpretare questi messaggi. A me poi non me ne importa nulla in questo, cioè non me ne importa. Non è il tema raccontare quelle che sono state le distruzioni avvenute già in Occidente. Abbiamo dato già per scontato che i vincitori poi modellano la storia su loro immagine e quindi devono cancellare quello che c'era prima. Siamo d'accordo. Poi in questo momento sapere che quelli che appaiono noi come quattro beduini intabarrati con la mazza in mano, perché sono così raffinati nel creare un palinsesto televisivo ben preciso con questo tipo di escalation? Questa è la domanda. Giovanna. Pronto? Sì. Da Verona. Senta, lei ha perfettamente ragione, però io sono rimasta sconvolta veramente quando hanno distrutto il Buddha. Io sono milanese, però sono a Verona da un... In Afghanistan parla il Buddha. Sì, sì. Dai talebani. Bamiyan in Afghanistan, sì, del VI secolo erano, comunque. Però adesso sono a Verona. Un giorno arrivo in Piazza Dante, me la guardo e vedo che c'è un leone di San Marco scalpellato via. Erano stati dei vandali francesi. La stessa identica cosa dei Buddha, dei talebani. Sì, però non avevano internet, non li filmavano e non ne facevano, un videoclip con la musica sotto ben costruita che mandavano in giro. Sì. Angela, buongiorno. Eccomi qua, allora io volevo dire chiaramente, sono anch'io rimasta sconvolta di fronte a quelle immagini, perché Oriente e Occidente secondo me non c'entra niente, la cultura è cultura e non va toccata. E volevo anche aggiungere una cosa che sembra non entrarci, ma i concetti di base sono gli stessi. Io vivo a Roma, a proposito di quello che è successo alla Barcaccia, io ho sentito dire a delle persone persino che hanno studiato l'istituto d'arte e che sarà mai per un pezzo di fontana che si è rotto. Va bene, abbiamo capito, scusate, fine. Allora, leggo due messaggi. Nicoletti, ci siamo capiti. Isis ci minaccia e tu vuoi farci comprare il libro di Ballardini. Tre marchette in poco più di due settimane. Non me ne viene in tasca nulla se vende o non vende il libro di Ballardini. Mi interessa perché è una lettura originale. Oggi è la lettura di tutti. Noi con Ballardini, 4 mesi fa, 5 mesi fa, cominciammo a parlare di messaggi pubblicitari. I colleghi mi guardavano inorriditi. Ma cosa piffero vai dicendo? Oggi è la lettura di tutti. Altro mi dice: sono continue provocazioni atte a costringerci a intervenire militarmente. Ecco, su questo invece che dici, Bruno? Ma premesso che io consiglio di non comprare il mio libro. Ma non come ce ne frega una mazza, cioè, non ce ne frega assolutamente. Ecco, andiamo avanti. Può essere una provocazione per incentivare un intervento armato? Dunque, allora, la pianificazione di cui parlavamo prima è in realtà l'ultimo atto di una strategia di marketing. Marketing nel senso non commerciale, cioè strategico. Il che significa semplicemente avere in mente di imporre un unico prodotto. Questo è il sogno più segreto che hanno le marche. Cioè, qualunque marca sognerebbe, anche se fa finta di essere democratica, cioè accettare l'esistenza di altri concorrenti, in realtà vorrebbe il loro annientamento, e loro lo stanno facendo, cioè è un'ideologia occidentale. È il super fustino del detersivo che vogliono imporci. Assolutamente sì, e in parte ci stanno riuscendo nei loro territori, poi bisogna vedere se andranno avanti. Bruna, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Complimenti, volevo dire questa cosa. Sono in disaccordo un po' con tutto quello che viene detto anche dall'ospite, perché secondo me non è marketing, secondo me questo è solo il loro terrorismo. Non c'entrano le cose che nel passato sono state fatte ad altre opere d'arte. Al massimo può centrare i Buddha che hanno abbattuto in Afghanistan, perché loro devono in qualche modo farci della violenza, e siccome non possono venire a bombardare tutte le nostre città, a fare attentati continuamente nelle nostre città perché non è così facile da organizzare, vogliono sconvolgerci con queste cose mediatiche, perché sanno che fanno leva sui nostri sentimenti, è un modo per cercare di indebolirci, è solo la loro violenza. Io credo che non vogliano dimostrare, sì, nient'altro. Io vorrei, non voglio dimostrare nulla nemmeno io, voglio semplicemente rifletta sul fatto che questo fa parte di una strategia studiata, non è casuale, è studiata, è immaginata da menti che hanno ben chiaro come si propone un messaggio e come si impone un prodotto. Bruno Ballardini, concludi. Ma insomma, il marketing non è commercio, ripeto, è una strategia che viene dalla guerra, perché il marketing è stato inventato dagli americani nel primo dopoguerra, con strumenti che venivano dall'approvvigionamento, dalle tecniche logistiche. Quindi in realtà la distruzione è quella dell'Occidente, ma che non arrivino, ma voi lo credete che non arrivino? Sono già in Europa. Fermiamoci qua, ritorneremo con Bruno Ballardini. Adonta dice che facciamo marchette, in realtà cerchiamo di far riflettere, poi non diciamo che dal nostro punto di vista sia quello in assoluto migliore. Ci proviamo, alla prossima.